Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, abbiamo commemorato il mese scorso il 60° anniversario dei patti di Roma, quelli che avevano dato vita il 25 marzo del 1957 per l'appunto alla prime comunità che sarebbero poi diventate quella che oggi è l'Unione Europea. E questa formula Unione Europea fu coniata in un'altra occasione che abbiamo ricordato sempre quest'anno, cioè il Trattato di Maastricht, che venne firmato in quella città il 7 febbraio del 1992, 25 anni fa. Da allora, da Roma e da Maastricht, la situazione è molto cambiata. L'Europa si è allargata dai sei fondatori fino a 28, Gran Bretagna compresa, di oggi. L'entusiasmo per l'Europa, nel quale l'Italia si distingueva, si è molto affievolito e da qui sono nati molti dibattiti su come salvare e rilanciare l'Europa unita. Ed è allora utile, credo, tornare alle fonti e cercare di considerare e ragionare sulle motivazioni originarie dell'Unione Europea. Lo possiamo fare con il libro Maastricht 25 anni, pubblicato da Ragno, 310 pagine, 20 euro, nel quale troviamo la documentazione spesso assai poco considerata e letta quando si parla d'Europa, ossia il testo dei trattati che per l'Italia furono firmati a Maastricht da Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio, da Gianni De Michelis, Ministro degli Esteri, e da Guido Carli, Ministro dell'Economia, Ministro del Tesoro. E il nipote di Guido Carli, Federico Carli, che oggi è docente all'Università Luiss di Roma, introduce appunto questo volume e ricapitola qui quelli che sono stati i temi essenziali che quel trattato introduceva nel lungo cammino dell'integrazione europea, e su questo lo abbiamo sentito. Buonasera Federico Carli. Buonasera. Federico Carli, il suo libro inizia nella introduzione che lei appunto ha scritto a questa raccolta delle carte dei trattati di Maastricht, inizia dando voce, ricordando che c'è molta preoccupazione, molto disagio nell'opinione pubblica nei confronti dell'Europa, che si è perso, scrive lei, o si sta perdendo quell'esprit dell'Europa che fu alla base, diciamo, delle grandi avanzate degli ultimi decenni. Che cos'era questo esprit dell'Europa e come possiamo recuperarlo? L'esprit de l'Europe è quello spirito che ha caratterizzato le classi dirigenti europee che erano uscite e che avevano conosciuto le devastazioni della guerra. Io ho voluto aprire questo libro che mi ha proposto Nino Aragno, proposta che io ho accettato con grande convinzione in occasione dei 25 anni della firma del Trattato di Maastricht, con un discorso, uno degli ultimi discorsi pubblici di Mitterrand al Parlamento europeo, in cui appunto lui ricorda tutto ciò che ha passato l'Europa prima appunto di arrivare a costruire questa casa comune. Quello spirito era animato da una forte tensione verso il futuro e aveva come obiettivo precipuo il progresso, la cooperazione e la solidarietà tra popoli europei. Cioè gli obiettivi che sono alla base del processo di costruzione europea, e l'obiettivo è quello del progresso. Uno dei capisaldi del Trattato sull'Unione Europea, come lei ricorda, è il famoso articolo 3A, nel quale si parla di una politica economica fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Ecco, questa forse è rimasta la grande lacuna del Trattato. Io sono convinto che questa sia la più grande lacuna che dobbiamo colmare, perché se noi, io mi sono sforzato di capire se la crisi che l'Europa sta attraversando dipendesse da un errore concettuale risalente allo stesso Trattato di Maastricht, o se invece ci fossero errori successivi o errori nella conduzione della politica europea. E mi sono persuaso che l'assenza di coordinamento, che invece è uno dei capisaldi del Trattato di Maastricht, sia alla base di, in particolare, della stagnazione, della lenta crescita europea. E questo, lei dice, è anche una responsabilità della Germania. Qui lei fa una lunga citazione per Luigi Ciocca, che non è molto tenero, come del resto lei, nei confronti della politica tedesca. Beh, io credo che questo rigore che la Germania impone al resto dell'Europa in qualche misura non risponda ai principi di solidarietà e di cooperazione che sono alla base dei trattati europei, perché sostanzialmente accentua i gravi problemi occupazionali nell'Europa mediterranea e, come dice Ciocca, che lei ha richiamato, provoca problemi economici alla stessa Germania. perché la Germania potrebbe utilizzare con questi attivi di parte commerciale veramente cinesi, anzi più che cinesi, la Germania cede risorse nette all'estero che potrebbe utilizzare all'interno e sostanzialmente attira su se stessa grandissimi flussi migratori che provocano poi dopo tensioni sociali interne. Quindi la Germania paga dei costi a questa sua politica. Lei ricorda nella sua introduzione i meriti che la delegazione italiana ebbe nel chiudere la trattativa per quel trattato. La delegazione italiana, ricordiamo, era composta dal Presidente del Consiglio che era Andreotti, il Ministro degli Esteri che era De Michelis e il Ministro del Tesoro che era suo nonno Guido Carli. In particolare Carli svolse un ruolo molto importante. Allora, spogliandosi dell'affetto, come possiamo ricordare il ruolo politico e tecnico di Carli in quell'occasione? Mario Sarcinelli, che è una persona che ha avuto anche alcune vicissitudini personali che l'hanno portato a scontrarsi con Carli quando era ministro del Tesoro, definisce il ruolo che Carli ha svolto a Maastricht il suo capolavoro politico, in quanto la delegazione italiana riuscì a svolgere un ruolo fondamentale per allentare i vincoli che già allora i paesi nord europei volevano essere molto forti, i famosi parametri. Insomma, convincere la delegazione tedesca, la delegazione olandese che soglie rigide dovessero essere interpretate in maniera flessibile, quindi dovessero essere interpretate come obiettivi tendenziali da raggiungere, non è stato semplicissimo. Io faccio due citazioni molto belle che Carli fa in due occasioni ufficiali per cercare di contrastare la impostazione olandese e tedesca. E appunto alla fine l'Italia, sostenuta dalla delegazione inglese, riesce a introdurre nel trattato questi elementi di flessibilità che avrebbero dovuto consentire di perseguire l'obiettivo di progresso e di sviluppo che è il cuore del trattato di Maastricht. Infatti lei insiste sul fatto che non occorre questa visione ragionieristica, come lei scrive, questa interpretazione meccanicistica e burocratica che invece purtroppo ha preso piede. Esattamente. La lettera del trattato respinge un'interpretazione contabile, ragionieristica, e dunque bisognerebbe tornare, appunto la soluzione che alla fine di questa introduzione do è quella di tornare allo spirito dell'Europa che aveva animato quelle classi dirigenti. Lei stesso indica che nel trattato ci sarebbero poi margini per appunto una visione non ragionieristica, però ci sono anche dei limiti importanti, per esempio il limite di non aver previsto dei riferimenti al ciclo economico e il secondo quello di non aver incluso gli investimenti, come oggi si chiede, nell'aggregato della spesa pubblica su cui poi calcolare il disavanzo e gli altri parametri. Questi limiti si potrebbero recuperare, secondo lei, con una trattativa politica? Io sono convinto che si debba fare una trattativa politica per superare questi limiti, anziché concentrarsi su recuperi di 0,% di sforamenti e cose di questo tipo. Io sono convinto che bisognerebbe puntare l'attenzione e concentrare gli sforzi su una trattativa per superare questi limiti, in particolare quello degli investimenti inclusi nel 3%, cioè bisognerebbe scorporare gli investimenti dal calcolo dei disavanzi, perché io credo che una politica molto forte di investimenti europea sia alla base del rilancio economico di cui c'è assolutamente bisogno per evitare rischi di sfaldamento e di sofferenza per le popolazioni europee. E dunque si può leggere alla luce di questo lo scontro di cui parlano i giornali o la divergenza d'opinione che ci sarebbe tra l'ex presidente del Consiglio Renzi e il suo ministro dell'economia Padoan? Si potrebbe interpretare anche in questo modo. Anche il governo Renzi, insomma, mi sembra che si sia concentrato molto su questi 0, di sforamento, però ecco, recuperare una visione più alta in questo momento è fondamentale per uscire da una fase che altrimenti continuerà a essere di stagnazione, e questo è molto, molto più. Tra le altre cose, gli obiettivi che pone il trattato in termini di istruzione, in termini di ambiente, richiedono investimenti pubblici. Dunque io credo che ci siano le basi per intavolare una trattativa alta di riforma generale delle istituzioni europee. Torniamo al nonno, no, lei è molto giovane, non so se le avesse parlato di Maastricht quando ritornò da Maastricht, ma lei ha qualche ricordo legato a questa esperienza di Guido Carli in particolare? Sì, io facevo l'università all'epoca e quindi quello è stato uno dei periodi in cui l'ho frequentato più spesso. Io ricordo il suo profondo pessimismo, lui aveva maturato un pessimismo profondo sullo stato della società italiana e riteneva che fosse necessario un percorso molto profondo di rinnovamento e riteneva che questo rinnovamento potesse essere aiutato dall'Europa, cioè lui interpretava Maastricht come uno strumento per rigenerare su basi più trasparenti la società italiana. Ricordiamo che Maastricht è del 92, 7 febbraio 92, quindi non era ancora esplosa Tangentopoli, che è di pochi giorni dopo e poi negli anni successivi, però lui aveva intravisto una stasi della società italiana e riteneva che fosse necessario un rinnovamento generale, quindi io ricordo questo suo pessimismo molto profondo. Grazie a Federico Carli, curatore di Maastricht, 25 anni. Buona serata. Grazie a lei, grazie, arrivederci. L'Europa di oggi si presenta a molti cittadini con un aspetto molto più problematico di quello che era stato immaginato all'inizio, un aspetto per esempio dominato tra tanti altri temi che fanno discutere da uno sul quale c'è un'enorme sensibilità, l'immigrazione. E su questo tema in particolare interviene il giornalista e scrittore Marco Truzzi, che ha scritto Sui confini Europa, un viaggio sulle frontiere. È pubblicato da Exorma, 164 pagine, 14,50 euro. L'Europa, ci ricorda utilmente Truzzi, nasce dall'idea di evitare quei massacri che si erano manifestati con le ultime due guerre mondiali, due guerre nate proprio in Europa. L'ideale dell'Europa era quindi giusto, la strada imboccata dopo l'89 sembrava segnata, eppure, scrive l'autore, ci troviamo oggi a fronteggiare il ritorno di stanze nazionaliste, protezionistiche, separatiste. Intolleranze e spinte xenofobe, di rivicazione della forbice nella distribuzione della ricchezza, economia interna a due velocità, crisi dei modelli delle politiche sociali. E allora in questa situazione che cosa rappresentano le frontiere dell'Europa? Truzzi le ha visitate nel corso di un paio d'anni, da Melilla in Africa fino a Birkenau e Auschwitz, dove l'autore riconosce l'utero dell'Europa. Infatti scrive: proprio qui prende vita un sogno che nasce da un incubo e dal rifiuto, dalla negazione che un'altra Auschwitz possa accadere di nuovo. Tra questi confini naturalmente ci sono anche dei confini che riguardano l'Italia, per esempio quello che è salito tristemente all'onore delle cronache nei mesi scorsi al confine di Ventimiglia, sul quale sentiamo queste righe. Da sempre gli scogli rappresentano ciò che segna il confine tra quello che siamo e quello che più temiamo. L'ignoto, la burrasca, le onde, il viaggio, il dover riconoscere la nostra debolezza di fronte agli elementi della natura. Ma adesso le persone sugli scogli sono vedette di un futuro che improvvisamente è diventato presente, senza che nessuno se l'aspettasse, comunque non così presto. Sono quasi tutti uomini. Vivono, mangiano, dormono, leggono sotto tende di plastica, messe su alla meglio, ripari che durante il giorno diventano vere e proprie fornaci, e di notte sono invece esposte al vento e ai frangenti. Il mare, per quanto rappresenti una frontiera valicabile, di notte fa tutta un'altra impressione. Un mare che molte miglia più a sud è diventato la tomba per molti compagni di viaggio. E i migranti, gli uomini sugli scogli, lo sanno. Quando scendiamo lì sotto, almeno una decina di loro stanno scrutando l'orizzonte diffidenti. Sanno che non bisogna fidarsi della quiete apparente. In giro c'è Saib, un eritreo che a prima vista potrebbe avere 900 anni, tanto il suo viso è segnato. Sta raccogliendo la spazzatura accumulata sugli scogli la sera prima, ficcandola in un sacco nero. Poco lontano, John ripiega lo stuoino di vimini rosso che ha appena usato per pregare. Nizza è là in fondo, dietro di lui. E quindi John ha pregato più o meno nella direzione giusta, con il viso verso la Mecca, a migliaia di chilometri di distanza in linea retta verso sud-est, dando le spalle alla capitale provenzale. La strada che passa sopra, oltre il parapetto, comincia ad animarsi di venditori ambulanti e degli abitudinari della vita di frontiera, mescolati ad attivisti no borders di varia estrazione. Ci sono anarchici italiani e avvocati francesi che intendono portare assistenza legale ai migranti, gruppi legati a partiti politici e altri che appartengono ad associazioni cattoliche. Camminiamo lentamente sugli scogli, attenti a non scivolare e a non calpestare inavvertitamente le poche cose sistemate sui sassi da chi si è accampato. Il mare, che riempie ogni fessura sotto i nostri piedi, serve allo stesso tempo da frigorifero, con le bottiglie d'acqua e di Coca-Cola tenute in fresco, e da latrina, da estremo rifugio in caso di sgombero improvviso, e da luogo maledetto, da cui star lontani, perché è capace di inghiottire uomini, donne e speranze, e non restituirli più. Interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Passiamo adesso alla narrativa e in particolare ai racconti. Vi segnalo innanzitutto una raccolta, quella di Alberto Cristofori, traduttore e scrittore, che ha scritto Nudità, è pubblicato da Bonpiani, 142 pagine, 15 euro. Qui troviamo 6 racconti, tutti di ambientazione più o meno milanese, che rappresentano tre età della vita. L'ultimo, quello che dà il titolo appunto al libro, è l'avventura di un'inappuntabile signora milanese che, dopo una scoperta scioccante che mette a nudo la personalità del marito, decide di cambiare vita fino a un incontro risolutore, un incontro tra due corpi nudi, appunto, in un'isola delle Eolie. C'è poi il ragazzo che si perde nei boschi in una gita scolastica, il padre ossessionato dai ladri che dovrà ricostruire il rapporto col figlio incrinato proprio da questa sua specie di psicosi. E sentiamo da questa raccolta alcune righe tratte da Il Duomo e la Lepre, che riguarda la scoperta da parte di Mina, una ragazzina di provincia sensibile di pochissime parole, che il fratello maggiore porta un giorno a Milano. Lui ha degli incontri di lavoro, vuole rapidamente mostrarle la città, Mina ha in mente soltanto il Duomo, il fratello la lascia per una mezz'oretta fuori di una delle chiese più belle di Milano, Santa Maria della Passione, e qui la ragazzina farà una sua scoperta. Stava per uscire quando un nuovo rumore attirò la sua attenzione verso il transetto destro, dove si apriva la porta della sagrestia. Lì, dietro a una piccola scrivania con dei foglietti illustrati, appollaiato su una sedia da cui i suoi piedi quasi non toccavano terra, c'era l'omino sospettoso che aveva aperto la chiesa poco prima, il quale, adesso vedendo Mina, le fece un cenno e un sorriso e la invitò tutto allegro ad avvicinarsi. «Sì, sì, da quella parte!» e a completare la visita. E accorgendosi dell'esitazione della ragazza e interpretando forse a modo suo il suo silenzio, «Vieni, vieni!» aggiunse sottovoce e le mise in mano uno di quei foglietti colorati, facendo strada intanto verso una zona buia, là in fondo, e accendendo le luci del corridoio, man mano che procedeva e che apriva con una sua chiavetta una porta a vetri e scostava una pesante tenda di velluto. Dividendosi come un sipario teatrale, la tenda lasciò passare Mina, che si trovò in una sala rettangolare piena di sedie, illuminata da una grande finestra sul fondo. I santi e le sante affrescati alle pareti stavano ritti al loro posto, tranquilli, ben vestiti a colori vivaci, chi con i loro libroni, chi aveva dei libri, i loro simboli di martirio, chi era destinato al martirio e l'espressione accogliente. «Avanti, avanti!» «Sedetevi pure, cari, non fate i complimenti. Di chi ne ha viste tante, assistendo ai capitoli del convento? Ne ha sentite litigi, beghe, slanci, cattiverie, accuse, belle parole, bugie, quanta pazienza! E alle loro spalle che paesaggio dolce, sopra le loro teste, sul soffitto della sala. Che cielo azzurro, che stelle d'oro. Insomma, nel libro di Cristofori troviamo la vita di ogni giorno che assume lampi imprevisti e capaci di dare un significato e una svolta all'esistenza apparentemente normale e banale dei personaggi. Un'antologia di racconti e di racconti d'amore, quella pubblicata da Schirà, 104 pagine, 13 euro, si intitola appunto Storie d'amore. La raccolta non è occasionale perché si tratta di 15 racconti che erano stati letti alla radio nel 1950 e poi raccolti in un libro. Erano stati presentati allora questi racconti come conversazioni sui grandi amori della storia, del mito, della fantasia, ed erano stati affidati ad alcuni tra i più celebri scrittori dell'epoca, che voglio qua ricordare: troviamo Elsa Morante, Massimo Bontempelli, Giorgio Bassani, Guglielmo Petroni, Piero Gadda Conti, Bonaventura Tecchi, Alberto Spaini, Maria Bellonci, Giuseppe Dessì, Adriano Grande, Pietro Paolo Trompeo, Francesco Iovine, Cesare Spellanzon, Diego Valeri e Antonio Baldini. E da questi racconti ho scelto alcune righe tratte da un amore straordinario, quello di Napoleone con Maria Valesca, la fanciulla che l'imperatore aveva incontrato nel 1806 a Varsavia in un ballo in cui la ragazzina, peraltro già sposata, aveva perorato la causa polacca. Ne era nato un grande amore che accompagnò i due fino alla fine di Napoleone, come ricordano queste righe tratte dal racconto di Adriano Grande, che è un poeta genovese vissuto tra il 1897 e il 1972. La guerra si riprese l'uomo dal drammatico destino e venne la sciagurata campagna di Russia. Maria Valesca è di nuovo al suo fianco, corre in Polonia, tenta di accendere gli animi dei suoi compatrioti perché si uniscano all'imperatore contro i loro secolari nemici. Invece fu la tragedia quando Bonaparte a Fontainebleau firmò l'atto di abdicazione e tutti lo abbandonavano. Solo Maria Valesca tentò di vederlo. Allorché poi, all'isola d'Elba, l'ex dominatore del mondo si preoccupava di allestire un nido che accogliesse la sua moglie austriaca e il re di Roma, Maria Luisa non rispose nemmeno alle sue lettere. Tutti, nell'isola, aspettavano lei e il bambino. Invece, su una nave napoletana, giunse una sconosciuta con un bimbo biondo che non era l'aquilotto. Era Maria Valesca, col figlio dell'amore, il piccolo Alessandro. Se Napoleone avesse voluto, la contessa non lo avrebbe abbandonato mai più. Ma il demone del potere, il desiderio della rivincita, bruciavano l'anima del grande corso. Ed egli fuggì dall'isola, riconquistò per 100 giorni la Francia, la riperdette definitivamente. Quando infine, prigioniero dell'Inghilterra, egli salpò per Sant'Elena, ancora una volta furono Maria Valesca col figlio, che alla partenza lo salutarono appassionatamente. Un'altra antologia è quella curata da Alain Mabankou, che è un poeta e scrittore di origine congolese, che ha raccolto di nuovo 15 racconti che hanno per tema il rapporto molto forte tra l'Africa e il calcio. Il libro si intitola La felicità degli uomini semplici, è pubblicato da 66 and Second, 166 pagine, 18 euro, ed è tradotto dall'inglese da Michele Martino, dal francese da Cinzia Poli, dal portoghese da Nunzia De Palma. Gli autori sono di vari paesi, come avete sentito, di diverse lingue, tutti paesi africani, e la raccolta ci parla appunto del calcio, uno sport al quale l'Africa è tutt'altro che insensibile. Scrive infatti il curatore che perfino nel villaggio più sperduto capita spesso di imbattersi in una maglia della Juventus, del Milan o del Paris Saint-Germain. E gli scrittori, aggiunge il curatore, ci dicono la loro su come il calcio cambi la nostra esistenza, accenda le passioni, susciti gioia, risate, lacrime e a volte dia vita alle situazioni più spassose. E anche un'antologia, il libro curato da Guido Conti, che è un critico giornalista responsabile di corsi di scrittura creativa, che si intitola Imparare a scrivere con i grandi, pubblicato da Rizzoli, 550 pagine, 15 euro. Qui troviamo alcuni grandi, anzi potremmo dire grandissimi della letteratura, per la precisione 19 grandi classici, che ci insegnano a scrivere. Per sapere scrivere, ci spiega Conti, bisogna essere curiosi. E ci ricorda, come dice Balzac, saper osservare è la dote essenziale per manifestare questa capacità. Per svilupparla, nulla di meglio che la lettura, perché, scrive Conti, leggere insegna ad ascoltare gli altri, educa l'attenzione al particolare e a guardare il mondo con occhi nuovi, nutre la curiosità. E allora, come si legge per imparare a scrivere? Proprio a questo vuole rispondere questa antologia. Conti quindi rilegge, ci spiega alcuni autori, scegliendo brani che potevano mettere in luce le caratteristiche della loro scrittura e al contempo far affrontare temi fondamentali. Maupassant per capire come riscrivere un racconto, Bulgakov per imparare a sviluppare uno spunto, Landon per gestire il ritmo e la tensione e così via. Gli autori sono tutti stranieri, Conti ci dà le ragioni di questa scelta, e i capitoli sono costruiti con una presentazione dell'autore, il testo appunto dello scrittore e la conclusione di Conti stesso, che coglie gli aspetti più significativi del brano proposto, invitandoci poi a un esercizio personale. Per esempio, ci spiega Conti, Chekhov è esemplare su come iniziare appunto un racconto breve, un genere nel quale l'autore russo rimane insuperabile. Sentiamo qui perché. Come Bulgakov, Chekhov sa trovare lo straordinario anche in ciò che a noi sembrerebbe ordinario. I protagonisti dei suoi racconti sono bambini, ragazzi, medici, barbieri, teatranti, commercianti, generali in pensione, attricette, studenti, vetturini. Insomma, mette in scena le storie di persone che, come dice egli stesso, potresti incontrare al mercato sotto casa. Perché, sempre secondo Chekhov, è più difficile dar voce a una serva che a una principessa. Una massima in cui è racchiuso il mondo poetico di un autore che si è dedicato per tutta la vita a scrivere racconti o testi teatrali. Il più grande dei grandi, naturalmente, almeno per noi italiani, è Dante Alighieri, col quale ci mettiamo in cammino assieme a Franco Nembrini, che è un grande esperto di scuole, esponente dell'associazionismo scolastico cattolico e grande appassionato di Dante, che ha scritto appunto In cammino con Dante, pubblicato da Garzanti, 282 pagine, 16 euro. Nembrini è un grande divulgatore di Dante, che ha portato anche in TV, dove lo ha accostato a questa canzone di Mina, La mente torna. Io voglio vivere anche per me, scoprire quel che c'è. Io voglio, apro già la porta, ma arrivi tu, la me. E nel libro vi spiegherà Nembrini l'accostamento tra Mina e Dante. Da questo capirete subito lo spirito col quale l'autore ci fa accostare al grande poeta, facendo frequenti riferimenti all'insegnamento religioso. Nembrini ci fa conoscere Dante non tanto seguendo pedissequamente il percorso nelle tre cantiche, ma raggruppando per temi le riflessioni di Dante. Per esempio, quando si parla di libertà, Nembrini ci ricorda che per essere buoni bisogna essere molto felici. Se si è tristi, più facilmente si sarà cattivi, e quindi il problema di essere degni del cielo non è provare a essere buoni, sforzarsi di raggiungere il cielo con le proprie energie come Ulisse, ma stare davanti al cielo, stare di fronte a qualcosa di così grande, di così bello, che faccia desiderare di essere migliori. E a questo punto il confettino. Abbiamo parlato di racconti e vi segnalo allora una nuova collana di Orecchio Cerbo, Pulci nell'orecchio, che presenta testi brevi di grandi autori, i quali ci propongono delle schegge d'infanzia con bambini protagonisti. Sono tutti illustrati da Fabian Negrin e i titoli sono Lo zio del barbiere, la tigre che gli mangiò la testa, dello scrittore americano William Saroyan, morto nel 1981, il testo qui è pubblicato da Elio Vittorini, Canitucce di una grande scrittrice italiana, Matilde Serao, e poi Rex di D.H. Lawrence, David Herbert Lawrence, il grande scrittore inglese, tradotto da Damiano Abeni. Il libro si intitola appunto Rex.